Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Bentornati sulle frequenze di Blu Radio Veneto per una nuova puntata di Fuori di noi ai microfoni. Anna e Cristian. Ciao Anna, ciao, bentornata Cristian. Anche per questa puntata, per questo appuntamento settimanale con il mondo degli oratori e con il mondo anche della CR, perché appunto da qualche settimana noi diciamo invitiamo dei gruppi ACR ad essere protagonisti anche del contenitore di Fuori di Noi. Vengono qui appunto in trasmissione, registrano i propri contributi e partecipano e arricchiscono appunto questo appuntamento settimanale. Infatti, premessa appunto, prima di iniziare, Anna, parleremo di oratorio, parleremo di ACR e tutti i brani musicali che sentirete in questa puntata sono proprio suggeriti dai ragazzi dal gruppo ACR e che presenteremo dopo, e però anticipiamo, sono i ragazzi di San Martino di Lupari che hanno scelto non solo appunto cosa dire all'interno di Fuori di Noi, ma anche cosa sentire, cosa ascoltare. Quindi la prima canzone appunto che in qualche maniera chiude la prima parte del programma è stata scelta da loro, così come la seconda. Anna, però tu sei reduce anche da una serata molto particolare appunto della settimana scorsa, dove qui a Treviso è arrivato l'assistente nazionale dell'Azione Cattolica, Monsignor Domenico Sigalini. Innanzitutto il pubblico c'era, ho sentito che la sala, appunto l'auditorio Pio X, era strapieno. Una qualche impressione dopo appunto aver partecipato a questa serata? Sì, allora a me la serata è piaciuta molto, come hai detto bene tu, è stata molto partecipata e anche nello spazio poi riservato alle domande, molte persone veramente avevano tante cose da chiedere, ecco, a Monsignor Sigalini, quindi anche questo è stato bello, perché vuol dire che veramente la serata ha colpito ed è piaciuta. Ecco, una cosa che a me è rimasta particolarmente impressa, beh, allora innanzitutto diciamo che il tema era la vocazione del laico di AC nella vita, nella Chiesa e nel mondo. Ecco, e in particolare Monsignor Sigalini ha detto che una caratteristica diciamo di questa vocazione, ecco, è la passione per le relazioni. Quindi lui sottolineava il fatto che il cristiano, ecco, di Azione Cattolica decide diciamo che a Dio non si arriva mai da solo, ma sempre insieme agli altri. Anche infatti lui sottolineava che il ragazzo di Azione Cattolica decide appunto di non pregare da solo nella sua stanza, ma proprio insieme al gruppo di amici con il quale anche poi comunica, cresce, condivide passioni, e questo secondo lui è molto importante, e anche secondo me è veramente una bella cosa, perché sappiamo quanto sia importante coltivare le relazioni, spendere nelle relazioni, aprirsi agli altri, mettersi in gioco. Quindi mi è piaciuto molto questa sua riflessione. Quindi la religione cristiana che ha un grande valore, una grande identità comunitaria che è fondamentale. Esatto. E la nostra trasmissione Fuori di Noi va in onda ogni sabato. Sì, alle 14. E domenica? Alle 12.30. Benissimo, abbiamo anche un'email, fuori di noi@libero.it, ma sappiamo anche, Anna, che sei stata impegnata non soltanto in questa serata come, diciamo, spettatrice, ma anche partecipe e rappresentante dell'Azione Cattolica, ma sei stata anche in quel di Martellago qualche giorno fa, durante una trasmissione realizzata da Telechiara, I Fatti Nostri, in piazza, mi pare, e aveva un tema particolare. Cosa hai detto in quella serata? Di cosa si parlava? Sì, allora, beh, innanzitutto sì, era in onda anche su Blu Radio Veneto. Oh, scusami, ma sei proprio informatissima. Sì, anche perché Blu Radio Veneto e Telechiara collaborano da tempo. Esatto, allora il tema centrale era la e-democracy, e appunto quindi poi c'era anche, partecipavano i consigli comunali dei ragazzi per vedere anche come loro partecipano, quindi tutti gli strumenti di partecipazione diciamo via web, e niente, poi io appunto ho fatto diciamo come rappresentante, ecco, dell'Azione Cattolica, perché con noi, ecco, si voleva toccare il punto più delle relazioni umane, quindi come la tecnologia aiuta diciamo o penalizza le relazioni, ecco. Bene Anna, informaci quando sei su Mediaset o su Rai, che noi appunto ti guarderemo, oppure sarai su un'altra radio e noi ti ascolteremo. Comunque Anna, allora, come dicevamo all'inizio, la mia radio preferita è questa, io sto qua. Perfetto, e qui Cesto ti aspetta, appunto il Cesto della direzione che ti è già stato stato consegnato appena hai detto questa battuta. No, comunque Anna, allora ti ringraziamo innanzitutto di essere ancora con noi appunto nel condurre questa trasmissione dedicata al mondo degli oratori. Diciamo che avremo ospite anche un responsabile dell'oratorio, di un oratorio presente nella diocesi di Treviso, e poi il gruppo OCR di San Martino di Lupari. Mi ricordo appunto che sono i nostri protagonisti più giovani, diciamo, di questa puntata, anche perché loro dedicano a tutti i radioascoltatori, dicevo appunto, la prima canzone appunto che chiude un po' il primo blocco di presentazione di Fuori di Noi, Titanium di David Guetta. You shot it. Titanium di David Guetta. L'avevi mai sentita questa canzone? No. Io l'avevo sentito, ma non sapevo che era di David Guetta. Pensa a te, quindi, la mia grande esperienza musicale. Per fortuna appunto abbiamo la regia qui di Eddie Daici, che salutiamo e ringraziamo, sempre pronto appunto a inserire tutti i brani appunto che i nostri ragazzi hanno desiderio appunto di inserire in Fuori di Noi. Fuori di Noi appunto trasmissione dedicata al mondo degli oratori, e quindi adesso entriamo nella seconda parte di questo breve contenitore appunto che va in onda su Blu Radio Veneto ogni sabato, ogni domenica, e abbiamo un ospite al telefono, uno dei responsabili di un oratorio presente, un oratorio Noi, Circolo Noi, presente nella diocesi di Treviso. Vediamo se c'è. Diego, ci sei? Sì, Cristian, eccomi qua. Ciao Diego. Allora, ciao, Diego, responsabile, referente, diciamo, uno dei consiglieri, e anche con un ruolo ben determinato che poi la nostra Anna appunto ti chiederà, dell'oratorio di San Biagio di Callalta. Esattamente. Da parecchio tempo anche sei impegnato all'interno dell'oratorio, vero? Sì. Sì, diciamo che da 8 anni, da quando abbiamo iniziato con la filiazione al Noi. Ecco, una struttura anche molto importante anche dal punto di vista architettonico. Noi l'abbiamo visitata, ci siamo già sentiti altre volte negli anni scorsi all'interno di Fuori di Noi. Diego, voi adesso state portando avanti però un progetto abbastanza particolare, anche con un nome e diciamo anche con una forma, diciamo, di pubblicità abbastanza interessante, anche carina. Come si chiama questo progetto e in che cosa consiste? Allora, il progetto si chiama Oratorio 4x4 Attrazione Integrale. Praticamente abbiamo creato un'attività che si sviluppa in 4 domeniche, in 4 mesi, perciò una domenica al mese, dell'oratorio aperto praticamente alle famiglie. È un'attività proposta per le famiglie. praticamente abbiamo detto: perché dobbiamo solo aprire l'oratorio, aspettare che qualcuno venga? Dobbiamo invitarli, dobbiamo creare qualche attività, qualche opportunità alle famiglie di venire in oratorio. E abbiamo creato questo 4x4. E i quattro quadri stanno a significare le domeniche dedicate alle famiglie, con attrazioni diverse, domeniche insieme per divertirsi e soprattutto l'oratorio in movimento. Ho capito. Ed è un'esperienza, Diego, che avete portato avanti quest'anno, ma oppure è un'esperienza, no, diciamo, collaudata, che state rieditando, diciamo, a scadenza annuale? Annuale, esatto, Cristiano. Noi è dalla terza edizione che facciamo questa del 4x4. Le risposte non sono sempre positive, nel senso che non sempre facciamo il pienone di gente, non sempre c'è una gran risposta delle persone, però insomma ci sono gli affezionati che non aspettano altro che le attività del 4x4 per parteciparvi. E che attività, cioè in senso, diciamo, abbastanza pratico e semplice, voi organizzate questa domenica con dei giochi, con delle riflessioni, con dei temi? Abbiamo iniziato con dei laboratori, perciò facciamo, invece di fare il classico spettacolo per famiglie o per bambini, okay, tentiamo di interagire con le famiglie, perciò facciamo dei laboratori, abbiamo fatto dei laboratori di origami, abbiamo fatto dei laboratori di burattini, di ombre cinesi, abbiamo fatto dei laboratori di lettura a voce alta, molto per interagire, per portare la gente a fare qualcosa, non stare là seduti a guardare uno spettacolo e basta. Quindi laboratori che possono anche unire l'arte, il divertimento, la manipolazione, esatto, la fantasia e la creatività delle famiglie, cioè rendendo protagoniste appunto le famiglie. Assolutamente sì. Dopo ci sono anche altre attività, nel senso anche la conclusione del 4x4, l'ultima domenica è sempre con i gonfiabili, che abbiamo i giochi nel campo sportivo, che allora là è proprio a livello ludico molto divertente e basta. Diego, il tuo impegno all'interno dell'oratorio com'è che è nato? Come è nato? È nato con una telefonata, mi hanno chiesto: sei disponibile per fare qualcosa in oratorio? E nel giro di un paio d'anni mi sono ritrovato all'interno dell'associazione del Noi di San Biagio come segretario, e adesso sono a scadenza del mandato di 4 anni come presidente della stessa associazione. Quindi vedi, aveva un ruolo abbastanza determinato, non era solo consigliere, ma o meglio consigliere con il ruolo di presidente. È diventato praticamente una colonna portante. Sì, anche perché ultimamente è bene sottolinearlo che tantissimi oratori, circoli oratori, stanno appunto cercando di dare più responsabilità, maggiore responsabilità ai laici, sempre ovviamente con la guida del consigliere spirituale, che di solito è il parroco appunto della comunità dove viene insediato l'oratorio, ma la responsabilità diretta in qualche maniera è di un laico. Se è giovane ancora meglio, qui abbiamo sia un laico che anche un giovane, vero Diego? Ma ti chiedo una cosa, l'impegno in oratorio appunto è abbastanza importante, perché voi come oratorio di San Biagio fate tante belle attività sempre in collaborazione con la parrocchia e con altre, immagino, associazioni o enti territoriali. Ti chiedo, e negli ultimi 8 anni o negli ultimi anni l'oratorio a San Biagio di Callalta voi l'avete pensato, l'avete progettato, l'avete animato per dare che tipo di messaggio? Se c'è un messaggio che tutte le vostre attività cercano di in qualche maniera trasmettere. Allora, guarda, il messaggio principale che abbiamo, che diamo come oratorio, è di fare di comunità, cioè di radunarsi intorno a quella che è l'attività della parrocchia, animare la parrocchia con tutte le sue attività. A me piace, Cristian, se mi permetti, una frase che ha detto Monsignor Sigalini ancora qualche anno fa, quando è venuto a una conferenza a Treviso del Noi, certo. Che diceva che l'oratorio, il Noi come oratorio, deve fare il ponte tra la strada e la chiesa. Sì. E secondo me questa è quello che abbracciamo di più come oratorio, nel senso dobbiamo prendere le persone che magari sono anche un po' lontane, che vanno a messa poco, che non frequentano molto la comunità, anche a livello di attività, anche la semplice sagra che non partecipa, e invitarli, invogliarli a venire, fargli respirare un bel clima, una bella aria. Questo è soprattutto quello che noi facciamo a livello di oratorio. Diego, hai citato Monsignor Sigalini, noi senza sapere che tu appunto citavi questo personaggio ne abbiamo proprio parlato all'inizio della trasmissione, perché è stato qui a Treviso qualche giorno fa. Diego, nel progetto 4x4 avete inserito anche un appuntamento che a noi, per esempio, di Treviso come realtà territoriale ci sta particolarmente a cuore, stiamo cercando un po' adesso di stiamo cercando di pubblicizzare al massimo e facendo in modo che tante persone possano partecipare. fare, e mi pare appunto che sia fissata per domenica 15 aprile. Esattamente, quest'anno abbiamo messo come attività del 4x4 domenica 15 aprile in trasferta a Quinto di Treviso, nel senso che parteciperemo, speriamo in gran numero, alla festa sociale del Noi Treviso che ci sarà a Quinto appunto il 15 aprile. È il motto dell'oratorio in movimento, nel senso non stiamo fermi sul nostro paese, sul nostro territorio, ci muoviamo, andiamo dove occorre e aiutare e partecipare alle varie attività che ci sono, insomma. Ecco, 15 aprile festa di Noi Treviso nell'oratorio appunto di San Giorgio di Quinto di Treviso. Ti chiedo un'ultima cosa, poi ti lascio perché so che hai tanti impegni da assolvere. Tu parlavi prima di collaborazione, di un oratorio che è in movimento, che è quindi anche ponte tra strada e chiesa. Voi negli ultimi anni avete cercato di instaurare, c'è una collaborazione con una realtà anche esterna, diciamo, al mondo tra virgolette oratoriale, con cui collaborate spesso, che avete instaurato e che sta portando buoni frutti, o c'è una speranza di una collaborazione dentro l'oratorio di San Biagio da dover ancora realizzare, ma che voi cercate ogni anno di riproporre con una certa energia? Guarda, allora noi abbiamo quest'anno riproponiamo per il secondo anno consecutivo una collaborazione con l'associazione Gemellaggio di San Biagio, del comune di San Biagio, perché siamo gemellati con un paese francese e facciamo dei corsi in lingua francese. Ma l'appuntamento che abbiamo portato avanti per tanti anni e purtroppo è saltato quest'anno, ma siamo fiduciosi di riprendere nei prossimi anni, è con l'associazione AFI, che sarebbe Associazione Fratelli Immigrati. Perciò con gli extracomunitari del paese si organizzano i vari giochi dei continenti, ogni continente porta il suo gioco e si fa una domenica con i giochi internazionali di tutto il mondo. Quindi scambio culturale e anche scambio appunto di relazioni che sono fondamentali. Esatto, anche nel momento conviviale della cena, del pranzo, si mangia le varie pietanze che arrivano da tutto il mondo, dal Congo, dal Kosovo, dalla Cina, dai vari paesi delle persone che partecipano alle attività. Molto bene, Diego, ti ringraziamo tanto, ci diamo appuntamento, ci ritroviamo allora alla festa di Noi Treviso nell'oratorio di Quinto di Treviso il 15 di aprile. Grazie ancora per la tua disponibilità, Diego, e buon lavoro all'oratorio San Biagio, all'oratorio di San Biagio di Callalta. Ciao Diego. Cristian, grazie a te, ciao, buona giornata. Ciao. Benissimo, e adesso secondo momento che concludiamo con la seconda proposta musicale degli amici, dei ragazzi della CR di San Martino di Luperi, che ci indicavano che volevano sentire We Found Love di Rihanna. But I di Rihanna, seconda parte conclusa. Adesso abbiamo i nostri amici di San Martino di Luperi e stiamo per ascoltare appunto il contributo che ci hanno preparato per Fuori di Noi per questa settimana, vero Anna? Sì, è vero, e colgo l'occasione di nuovo per ringraziarli. Per erano tantini, Erano tanti, erano 20 e se non sbaglio solo la terza media, quindi immaginiamo che numeri hanno a San Martino di Luperi. E immaginiamo anche gli educatori quanto bravi sono, quanto pazienti e comprensivi appunto che appunto nel loro accompagnamento verso appunto questo cammino formativo, spirituale ma anche umano. E noi come abbiamo intitolato questa rubrica? Allora, in oratorio si punta in alto. In oratorio si vola alto! E allora appunto adesso ascoltiamo il primo contributo dei ragazzi dell'ACR di San Martino di Luperi. Ciao, siamo della parrocchia di San Martino di Luperi. Roberto. Alberto. Daniel, Giovanni, Andrea, Enrico, Alice, Arianna, Federica. Nome del paese: San Martino di Luperi. Nome della parrocchia: San Martino Cristo Re. Nome del comune: San Martino di Luperi. Numero abitanti: 13.061 circa. Numero delle famiglie: 2.500 circa. Nome del parroco: Don Livio Buso. Età del parroco: 56 anni. Tre gruppi di questa parrocchia: Azione Cattolica, Gruppo David, Scout. ACR quando? Sabato pomeriggio. A che ora? 15:16:30. Quanti siamo? 130 circa. Gli educatori? 18, terza media, Anna, Giorgia, Paolo, Pietro. Nell'ultimo incontro abbiamo parlato di? Diritti dei bambini e abbiamo realizzato un video che poi abbiamo mostrato ai nostri genitori. A me la CR piace perché? Per stare in compagnia ci si diverte e si parla di Gesù. Aderenti a C? 281. Benissimo, e noi chiediamo che cosa a questi ragazzi? Di fare una piccola carta d'identità del proprio paese, della propria parrocchia, così almeno abbiamo in forma abbastanza schematica e abbastanza veloce alcuni dati, diciamo, quindi ci inseriamo nel paese. E il secondo contributo cosa chiediamo, Anna? Sì, allora chiediamo loro appunto di raccontare un'esperienza di spiritualità, quindi delle attività, ecco, che li portano a conoscere ed incontrare più da vicino Gesù, quindi attività profonde, ecco, significative. Allora Anna, non ci resta che ascoltare cosa hanno fatto di profondo e significativo gli amici della CR di San Martino di Luperi. Cosa abbiamo scoperto della CR? Il concetto di gruppo unito. Ho scoperto che si può stare insieme a Gesù stando in compagnia e divertendosi. Ho scoperto che non bisogna vergognarsi se si va a messa o a catechismo o se si segue Gesù. Ho scoperto che molti altri miei coetanei condividono i miei ideali e le mie opinioni venendo con me alla CR. Ho scoperto attraverso i miei animatori la bellezza di donare il tempo agli altri. Cosa ci piace della CR? Mi è piaciuto portare gli omaggi e gli auguri di buona Pasqua a chi fa parte della C da molti anni. Mi è piaciuto in particolare il primo sabato di ACR di quest'anno, perché abbiamo fatto attività, abbiamo giocato e siamo andati a messa. Mi è piaciuto pulire il parchetto di San Martino, perché anche se non ero molto entusiasta, ho scoperto che potevo aiutare con un piccolo gesto. Mi sono divertita nel preparare i biglietti natalizi, da donare fuori da messa. Ho trovato un modo nuovo di stare con gli altri, senza dimenticare Gesù. Dalla CR di San Martino di Luperi, oggi è il doccio, credete maci! E allora Anna, dovremmo stare attenti anche noi a non tocciarsi, insomma, a non sporcarsi, immagino, vero? A non maciarsi, perché il toccio è sempre una roba un po' difficile appunto da sistemare. Ecco, con questo saluto simpatico noi chiediamo appunto, anche se c'è un modo di dire, una, diciamo, un saluto un po' simpatico appunto e caratteristico del paese, e loro, i ragazzi di San Martino, hanno trovato questo, che ormai sarà un po' da colonna sonora di questa puntata e non solo di questa puntata. Grazie tante appunto agli amici di San Martino di Luperi. E visto che non so cosa l'ACR non fa nelle proprie parrocchie, perché dall'ambiente, pulizia appunto del giardinetto, ai bigliettini natalizi e a tantissime altre cose, io invito a fare anche un'altra cosa, perché la Vita del Popolo, Anna, ci ha lasciato appunto il settimanale diocesano della diocesi di Treviso, ci lancia praticamente un concorso per borse di studio dal titolo Io oggi mi spendo, giovani e volontariato. Il concorso che hanno indetto offre a ogni alunno l'opportunità di cimentarsi nella stesura di un articolo di giornale della lunghezza minima di 3.500 battute e massima di 4.500 sul tema Io oggi mi spendo, giovani e volontariato. Cosa devono fare? Sono accettati tutti i tipi di articoli, sia sotto forma di reportage, inchieste, interviste e testimonianza. Ogni alunno potrà ovviamente partecipare con un solo elaborato. Ci sono anche tanti bei premi, anche qualche soldino, quindi invito appunto i ragazzi della diocesi di Treviso, ragazzi che hanno la passione magari per scrivere, ma anche coloro che vogliono cimentarsi per la prima volta, di partecipare a questo concorso. Per avere maggiori informazioni dovete mandare o telefonare, dovete telefonare allo 0422 576850, la redazione di Vita del Popolo, o un'email a info@lavitadelpopolo.it, ma basta andare anche sul sito e troverete maggiori informazioni. Scadenza importante e ovviamente improrogabile per mandare il materiale, l'elaborato, è il 31 maggio 2012. E con questa notizia, con questo concorso, con questo bando di concorso diciamo appunto letterario, noi concludiamo questa puntata. Anna. Bene. Sei tranquilla, a posto? Volevi sì. Dire qualcos'altro? No, volevi aggiungere qualcos'altro? No, ancora bravi i ragazzi, veramente, se lo meritano proprio. Ripeto, io saluto sempre anche tanto gli educatori e salutiamo anche il parroco di San Martino di Luperi, che conosciamo bene, Monsignor Livio Buso, che è stato per tanti anni qui a servizio appunto in Casa Toniolo. Un grande saluto, un grande abbraccio, un buon lavoro a tutti quanti e alla bellissima realtà, numerosissima realtà di San Martino di Luperi. Ciao anche al Diego di San Biagio di Calabria, che è stato nostro ospite, alla regia di Edi Daici, che ci dice stringiamo perché dobbiamo finire. Noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre di sabato alle ore 14 e domenica alle ore 12:30, sempre solo su Blu Radio Veneto con Fuori di Noi. Ciao Anna. Ciao Cristian e ciao a tutti. Ciao ciao. Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.